Luponer Summer Spurgo. Bentrovati di nuovo a questa puntata, ennesima puntata, la quarta della seconda stagione di Lupo Nair Summer Spurgo, l'edizione estiva di Lupo Nair con Vanni e Framì che va salutato all'inizio e basta così. Allora abbiamo iniziato questo episodio con i Rotersand, una band di industrial pop, si definiscono loro. Future pop non gli piaceva, electro, industrial, dark electro è troppa roba, i BM è troppo pesante, no, sono comunque tedeschi, però sono industrial pop. Hanno appena pubblicato un album che com'è che ha chiuso il titolo l'album? Don't Become the Thing You Hate, Hated, il brano che abbiamo ascoltato era Private Firmament, I Fell For You, Rotersand. Ora passiamo al metallo estremo subito con i Machuca, che non parlano una lingua misteriosa, però sono tedeschi, di Berlino. Si dichiarano post black metal, questo è il loro album di debutto Mokshari, E non ho idea di che in che lingua parli, però il brano che andiamo ad ascoltare adesso, intitolato Trimatis, sembra proprio che inizi con uno che grida: sono proprio Togo. Togo proprio! Poner Summerspurgo. Franziska Lanz è un'artista svizzera nata a Londra, che sta in Svizzera perché paga meno tasse. È la proprietaria della Global Warming Records, su cui ha pubblicato solamente i dischi suoi, fondamentalmente. Tre album, questo è l'ultimo che è uscito, si chiama Saturn Retrograde, è uscito in cassetta tra l'altro. E abbiamo ascoltato il brano Sunny Hill Road. Ora passiamo di nuovo al metallo, ma quello triste. Dalla Romania arriva un gruppo di death doom, atmospheric doom metal, come cacchio volete chiamarlo, si chiamano Clouds. Hanno fatto una serie di album che iniziano tutti con la D e sono intitolati in rumeno. Questo si chiama Death Prince, non so che vuol dire in rumeno. È il tipo, li conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, settimo album. Pensate da quant'è che la loro gioia di vivere pervade il mondo. E niente, ascoltiamo un brano di infinita tristezza che si chiama Disguise. Loro sono i Clouds. Lupo on air, Summerspurgo. Giovinotta da Parma, la dobbiamo chiamare Sir, o baronetto, baronetta. Vabbè, comunque si chiama Sir Petrol, si dichiara alternative trip rock o adult pop, va bene, va bene. E abbiamo ascoltato un brano tratto dal suo album di debutto, e l'album si intitola, come si intitola? Made Out of Stone il brano, forse pure l'album, vabbè, facciamo così, Made Out of Stone di Sir Petrol. Grazie. Ora le marche, che ci abbiamo dalle marche? È un po' che è uscito probabilmente, non mi ero accorto io, c'è un nuovo album degli Scala Mercalli, il quinto album degli Scala Mercalli, un gruppo che in realtà fa album dal 2005, ma esiste da molto molto prima, ha una storia molto lunga, dal Fermano arrivano, fanno heavy metal classico direi, e negli ultimi anni sono specializzati sul narrare la storia del risorgimento italiano. E ora, l'ultimo album in realtà è un concept sulla Prima Guerra Mondiale, si intitola Confini 1915-18, e si avvicinano pericolosamente a argomenti che non so, come andranno a finire, insomma, la storia di Scala Mercalli. Comunque, niente, adesso ascoltiamo un brano di quest'ultimo qua, finché si possono ascoltare. Ace of Aces, Francesco Baracca, un brano dedicato al... super pilota italiano della Prima Guerra Mondiale, che ha battuto un sacco di nemici. Scala Mercalli. Summerspurgo. Questo tocco delicato era quello degli Stahlgeist, che nonostante il nome crucco, arrivano dall'Ungheria. Sono una band di, cioè un duo di veterani della scena industrial ungherese che adesso sono messi a fare IBM Old School con questo progetto qua, Stahlgeist appunto. Dall'ultimo album fresco fresco, Justice, abbiamo ascoltato il brano Boots on the Ground. Invece un po' meno fresco, perché comunque sia è un album dell'87, Opus Dei, dei Laibach, dei sloveni Laibach, un patrimonio UNESCO della cultura, direi. Hanno da poco però pubblicato una versione rivisitata di Opus Dei, Opus Dei Revisited appunto, un doppio album con delle reinterpretazioni da parte loro, e un altro album con dei remix dei loro vecchi brani a cura di Rico Conning, che è un tipo londinese che ha lavorato in studio per la Mute, quindi con i Depeche Mode, con i Wire, Swans, Laibach stessi, e di recente si è trasferito negli Stati Uniti, e però adesso l'hanno chiamato: ehi, ci rovini il disco, ehi Rico, ci rovini il disco, e lui gliel'ha rovinato. Quindi ascoltiamo la versione electropop di The Great Seal dei Laibach, remix di Rico Conning, Rico Conning's Inner Ear Remix 2024, Laibach. Thank you. Lupo Nair Summerspurgo. We'll be right back. po' di smarrimento c'è sempre ascoltando gli Axis of Perdition, che poi sono diventati The Axis of Perdition e ora An Axis of Perdition. Sono inglesi, fanno industrial black metal, comunque black metal con i problemi, più di quelli del black metal normale, diciamo. Questo è il loro quinto album, intitolato Apertures. Apertures, come cacchio si pronuncia? Sono inglesi. Vabbè, comunque il brano che abbiamo ascoltato era Chant of a Warshi. E finisce così, che te devo fare? Axis of Perdition, An Axis of Perdition. E ora, novità italiane. Le novità italiane sembra un cinegiornale degli anni 70, ma le novità italiane sono P38. Il nuovo album dei P38. Allora, loro erano usciti, hanno fatto un sacco di clamore riportando il linguaggio dell'estrema sinistra un po' confusa tra momenti anarcoidi, momenti filostaliniani e filobrigatisti. P38 hanno pubblicato un album intitolato Nuove BR. È andato tutto bene finché non hanno fatto incazzare gli eredi di Aldo Moro, muscoloso, esibendosi a un arci di Reggio Emilia, se non ricordo male. E c'è stato i processi, non è una roba lunga perché adesso è un tabù bello grosso della storia italiana. Tuttavia, in qualche modo, non so come, sono riusciti a tornare con un nuovo album chiamato Dittatura. Da questo album ascoltiamo un brano che credo a occhio sia un po' un commento della loro vicenda. Si intitola Circo Tribunale. Loro sono gli P38. Tua figlia sta nei MDM hotspot, yeah, sono il punto caldo, dentro di me c'è lava, il mio cazzo lo chiama Vesuvio. Poppy, casca il naso, no, io voglio il circo senza gli animali. Se per fare terrorismo basta il vostro terrore, io sono un coglione, allora leccami le palle. Ho acceso una bomba d'inchiuso in procura, io ho fumato in testa, mi lavo quei soldi, c'ho il cuore in Alaska, mi arrosto negli occhi, mi sega coi piedi chiamandomi troia. Il DM c'ha una spugna, fa una pedicure, po-po-po-po-panico, ma di Tokyo da Bonaventure. Ehi, sembro Graziano Mesina, quattro proiettili, viva la Cina. Immagina i carabinieri che c'entrano in casa alle 6 di mattina. Stanno finanziando tre corpi di polizia per spiarmi la vita. Ma parto il jeep dal jeep, dice Jimmy buona la prima. Se il biglietto è un po' salato abbasseremo il costo. Metto i soldi da parte e un PM al suo posto. Metto tutto in ordine, non sono un tipo a posto. No, persino il mio avvocato è losco. Chi è che ci vuole dentro la gabbia? Un magistrato indagato per revenge porn. Giurista Monello, stai saltando l'appello. Salto il trapezio in udienza, io non canto come un fringuello. Siamo al circo, sono pagliaccio ma non siamo al circo. Circo, grosse risate ma non siamo al circo. Circo, stiamo domando questo animale, siamo al circo. Fatti due risate in tribunale. Yeah, yeah, boss, le bacio il santino di Stalin. Rosti, ghost, mi intercettano, parlo con le loro mogli. Hotline, la mia lei spara, no TikTok, no tarocchi. Sbirro si gratta e pieno di pidocchi, scemo si lava solo se lo ordino. Ya, ya, ya, ya, sono innocente come un agnellino. Siamo la storia, tu non ci hai capito. Scosso una guardia vestito da Pippo. Chiedo al PM un minuto di pausa, così vado in bagno e mi faccio una striscia. Buona. Sul beat io mi diverto, pensa se fossi dentro la procura. Un piercing al capezzolo, puti leccarmelo se fate il mutuo. Alla caviglia tengo un braccialetto, faccio la danza del verde. Tutto sorridente, però sto offeso che non c'è più. Mani sul banco, sì, perché è arrivato il maestro. Sai fare una molto, no, mi sa che ti serve un maestro. Ti piace la mafia, io penso sia facile quando tuo padre fa l'imprenditore. Non sono domatore, stanotte rinchiuditi perché dal circo è scappato il low. Siamo al circo, sono pagliaccio ma non siamo al circo. Circo, grosse risate ma non siamo al circo. Circo, stiamo domando questo animale, siamo al circo. Fatti due risate in tribunale. Lupo Nero. Summer New Wave dal Messico, signori, con i Vacios Cuerpos. Il brano che abbiamo ascoltato era Entre Sombras, e così si conclude questa quarta puntata di Luponer Summerspurgo, seconda stagione di Luponer Summerspurgo. Vi lasciamo con Black Light Smoke e il suo singolone Crimes One, uscito lo scorso anno. Black Light Smoke, che vedo qui, è uno che fa techno, si chiama Jordan Lieb, per la mamma lo chiama Jordan, noi lo chiamiamo Black Light Smoke, e questa trasmissione voi lo chiamate Luponer Summer Spurgo! travail, se dédoubler. On dédoubler, se sentir deux fois, deux personnes différentes entre le travail et la maison. Summer Spurgo.